Ecco, questa è una prova di registrazione con il microfono del mio computer, sono proprio davanti e vediamo un po' come viene. Bene, ora passiamo a registrare con un microfono USB, vediamo come viene. Il microfono è davanti al computer. Bene, ora proviamo a registrare quindi con il Rode VIRMIC GO messo orientato verso di me. Ora provo a registrare con il VIRMIC GO invece orientato dalla parte opposta.